21.05 Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Inizia come ogni mercoledì sera prova tecnica di trasmissione. Da adesso sino a circa le 22.30 rimane l'incognita di 25 o'clock, che non so se oggi ricomincia il suo ciclo di trasmissione oppure anche per questa sera forse saremo l'ultimo programma in diretta. Contatto telefonico 0649 1750, sito internet www.ondarossa.info, con il relativo streaming già abbastanza frequentato questa sera. Indirizzo di posta elettronica è ondarossa@ondarossa.info e questo spazio ha una pagina Facebook che è prove tecniche di trasmissione /disorder. Per quanto riguarda il lato sottoscrizione e vita di questa radio, c'è un conto corrente postale che è 61 80 40 01, un conto corrente che va impostato e assegnato e intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Viale Volsci 56 00185 Roma. Nel sito si possono trovare anche le modalità più elettroniche. Quindi salutiamo Alessandra qui da Roma, come qui da Roma Like Awake, valente progetto Space Ambient e Dark Ambient. Wurnus Island da Asti, Stefania da Berlino, Giovanni Lisi da Bari, Francesco sempre qui da Roma, Gianluca Becuzzi, maestro Gianluca Becuzzi, attualmente residente in Sardegna, e da Napoli Raffaele Pezzella. Come succede da un po' di tempo a questa parte, l'inizio lo riserviamo alla compilation ideata proprio da Raffaele Pezzella, aka Sonologist, questo Visions of Darkness in Iranian Contemporary Music, una fotografia molto approfondita della scena iraniana, quella più nascosta e sperimentale, quella che ci interessa di più e che ci ha regalato a me personalmente moltissime sorprese. E quindi questa sera è il turno anche di un artista che già in passato ci ha onorato della sua presenza qui in questi spazi. Sto parlando di Hossein Ranki e di lui ci andiamo ad ascoltare questa lunga traccia dal nome Mute. Giustamente, anche Luca da Ostia ci era sfuggito, anche lui un fedelissimo. eccellente inizio per quanto riguarda questa Visions of Darkness in Iranian Contemporary Music. Suntuosissima compilation, suntuosissimo compendio ideato e congegnato, costruito da Raffaele Pezzella, che a sua volta conosciamo anche come musicista, come sonologist. Un album che privilegia atmosfere minimali o space o dark ambient. In questo caso c'era un pianoforte incalzante suonato dallo stesso Hossein Ranki in questa Mute, una lunghissima traccia, credo tra le migliori di questa lunga compilation che ascolteremo e continueremo a ascoltare anche le prossime settimane. La compilation sta proseguendo, anche se non sembra, i rumori sono ultra minimali, e quindi noi andiamo avanti ringraziando ancora di nuovo Raffaele Pezzella. Un altro personaggio che ha gravitato e che gravita tuttora nella Nesplay Sounds, questo gruppo di appassionati, questo gruppo Facebook che io non a caso cito perché lo consiglio caldamente, io che sono un po' restio dei gruppi Facebook, questo devo dire, è utile per la condivisione e lo scambio di utili informazioni musicali. Lui è Sisto Palombella, il maestro Sisto Palombella, maestro della fisarmonica trattata, ma non solo. E abbiamo qui una serie di tracce che ci ha donate, e questa è Blues for Mirtillo. Mirtillo è un asino, semplicemente, tra virgolette, un asino, al quale Sisto ha dedicato questo, diciamo, splendido blues. Poi ci sarà la breve Idea Petite Chanson.

Ancora Sisto Palombella e salutiamo Mario qui da Roma, Ottavia, colonna di Radio Onda Rossa, che ci sta ascoltando. E Luca ci chiede qualcosa di più, come dire, accessibile, tra virgolette, romantico, e forse è proprio questa la parte più accessibile del programma, per cui faccia lui si regoli di conseguenza. Ancora Sisto Palombella e la sua splendida fisarmonica. E su questa nota salutiamo anche Francesco qui da Roma e noi si va avanti. Andiamo un po' a conoscere questo progetto dal nome Empty Chalice, che esce per la Industrial Holocaust Recordings, un'etichetta fondata da Mario Cardinale. E qui le atmosfere si fanno decisamente più cupe rispetto a queste, se vogliamo, anche sognanti di Sisto Palombella. L'album in questione è Emerging in Submerging di Evil e ci ascoltiamo Muffled Scream. Da Londra Gabriel Edvi e Fabio F.K. Drone, un saluto a loro. chiamava Empty Chalice, questo Emerging is Submerging the Evil, secondo lavoro per un progetto in realtà esistente da molti anni, circa 20, ma che purtroppo è uscito soltanto attraverso due capitoli. Questo è appunto l'ultimo capitolo, con la collaborazione di Mario Cardinale e la sua Industrial Holocaust Recordings. Un saluto dunque a Antonio Airoldi, questo è quel poco che sappiamo di questo artista. Non so se anche lui proveniente dal sud o da qualche altra parte dell'Italia. In ogni caso lo salutiamo. È un album che poi lo ascolteremo attraverso tutti i suoi drone, tutto il suo incedere così oscuro e criptico, lo ascolteremo anche nelle prossime settimane. Lui è Gianluca Becuzzi, che risalutiamo, che credo non abbia bisogno di presentazione, una delle migliori espressioni della cultura musicale in Italia, ma non solo. Una prolifica attività anche come solista, nel senso come, diciamo, usando il suo stesso vero nome. Solista è un termine improprio perché soprattutto in questa occasione si avvale anche della collaborazione, dell'incontro artistico con Massimo Olla, entrambi, ricordo, provenienti dalla Sardegna. Un interessantissimo lavoro dal nome Red Room, sorta di ballate maledette, con l'ottima voce di Gianluca Becuzzi, una sorta di atmosfere così ritualistiche e riflessive, crepuscolari in certi frangenti, con gli strumenti autocostruiti di Massimo Olla. Ci ascoltiamo il brano di apertura, Black Dahlia. Salutiamo con entusiasmo con questo Redrum, questa opera composta da Gianluca Becuzzi e Massimo Olla, che salutiamo di nuovo. Questa Black Dahlia con il suo andare così ritualistico ma fascinoso nello stesso tempo. Un grande lavoro alle percussioni anche, la splendida voce di Gianluca Becuzzi. Che qui mi ricorda Lina Baby Doll di Deutsche Nepal, un disco cantato stupendamente dal buon Becuzzi, ci complimentiamo con lui. Un album che albergherà nelle prossime settimane qui nelle sezioni di prove tecniche di trasmissione, un album che esce per una etichetta emergente, Luce Sia, che ascolteremo anche più in là nel caso dei Wurnus Island, anche loro previsti tra qualche minuto. Invece adesso, dopo Gianluca Becuzzi e Massimo Olla e il loro Redrum, ce ne andiamo in Slovenia. Ultimo passaggio per quanto riguarda Also Sprach Zarathustra, questo splendido lavoro dei Laibach, così caratterizzato da atmosfere neosinfoniche, che lo distanzia abbastanza dalle ultime produzioni del combo sloveno. Ci ascoltiamo la traccia di chiusura, Fond and Dry, Verbandlungen.